piacere e l'onore di portare il saluto dell'onorevole Bruno Kest, che è il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura e che purtroppo è assente in questi giorni. E grazie di formulare l'augurio più sincero di buona riuscita di questa settimana di studi e di buon soggiorno qui a Trento. La motivazione istituzionale dell'Istituto Storico Germanico di Trento che è quella della promozione degli studi relativi ai legami che uniscono il mondo germanico e quello italiano nella realtà storica europea. Per cui in un momento storico in cui il mito di un'Europa unita sembra avviare il suo meccanismo di formazione, che nessuno credo si illuda possa essere ragionevolmente né rapida né tantomeno facile né indolore, gli uomini di buona volontà non possono esimersi dal bisogno di approfondire le conoscenze storiche delle comunità nazionali europee. La valutazione attenta e la profonda riflessione sulle vicende dei vari territori fisici, razziali e culturali, e quindi anche ovviamente sulla cultura, le istituzioni, la vita religiosa delle città in Italia e in Germania, che sono l'oggetto di questo seminario, sono alla radice di qualsiasi tentativo razionale e motivato di avvicinare i due paesi. Per questo motivo noi, cittadini di Trento, della provincia, che non essendo addetti ai lavori, non possiamo addentrarci in profondità nella relazione di questo seminario, ma che ne intuiamo comunque l'importanza storico-culturale, crediamo di poterne ricavare motivo di interesse soddisfazione consapevole per il contatto umano che non potrà mancare non solo fra i partecipanti a questo seminario, ma soprattutto magari più di caratteristiche tra i due mondi. Ho letto che il professor Vandruska, illustre componente del Comitato Scientifico dell'Istituto, ha scritto che il Trentino è stato sempre terra di incontro e anche di scontro tra il mondo germanico e quello italiano. Ebbene, se mi è concesso usare un'espressione forse meno pertinente, meno scientifica, ma più fiduciosa e anche un tantino forse più poetica, vorrei proprio che il Trentino diventasse un ponte, eine Brücke, fra l'Italia e la Germania. Parole prima di cedere la presidenza e la direzione dei lavori ai coordinatori, in armonia con quanto dicevo prima, e il nostro metodo è un metodo, diciamo, di, non di un convegno, di un congresso, ma di un gruppo di lavoro. Questo è sempre stato così, ormai abbiamo una tradizione di 5 anni. Quindi intorno a questi tavoli, se c'è qualcuno, qualche borsista che è arretrato, lo prego di venire più avanti, insomma, di sedersi intorno ai tavoli, si siedono i relatori, come diciamo colleghi anziani, anche se non sono anziani, diciamo più avanzati nella ricerca, e borsisti o partecipanti, juniores, diciamo. Ecco, intorno a questi tavoli, e i coordinatori poi provvederanno ad una presentazione reciproca. Il nostro schema consueto è quello di avere una sola relazione per ogni mezza giornata, proprio perché la relazione diventa quasi un pretesto, questo non per svalutare l'apporto dei relatori, per una discussione che è altrettanto, diciamo, anche distesa nel tempo quanto la relazione, in modo che ogni mezza giornata si divide in relazioni e, dopo un breve intervallo, uno spazio di discussione ampio. Per la lingua, naturalmente ognuno parla la propria lingua, i coordinatori provvederanno a eventuali sintesi e chiarimenti nell'altra lingua. È un sistema più empirico di quello delle traduzioni simultanee, ha due vantaggi: uno di essere a buon mercato e l'altro di essere, direi, più umano, a dire la verità. Quindi il genere, supposto una base minima di conoscenza delle due lingue, noi abbiamo visto che ha in complesso vuoti dell'animale. Ecco, quanto al tema specifico, appunto, io non sono un esperto di storia della città, non entro quindi assolutamente in argomento, dico soltanto che, come tutti sanno, questa tematica ha avuto uno sviluppo estremamente ampio nella storiografia degli ultimi anni. Noi come istituto, credo di interpretare anche così quella che è stata la decisione del comitato scientifico quando ha scelto questo tema, non abbiamo nessuna illusione qui di arrivare a panorami completi e organici su un tema così vasto, appunto, e così anche oggi oggetto di studi diciamo, e di pubblicazioni continue. Il punto che noi vorremmo e credo mettere in luce, accanto al valore primario che dicevo prima, consiste soprattutto nel metodo di lavoro, è quello di vedere in che modo questo sviluppo storiografico degli ultimi anni può ripercuotersi dall'angolatura di una storia, non direi nemmeno comparata, perché già qui si va, ma dal punto di vista comparativo di differenti angoli dall'Italia alla Germania. Quindi, appunto, la discussione che avrà un valore più esemplificativo che organico, credo. Ecco. Ma spero possano contribuire a mettere a fuoco quell'interesse per la storia comparata degli sviluppi cittadini del nord Europa e al di qua delle Alpi, che già un secolo fa, più di un secolo fa, nel 1847, leggo due frasi di Carlo Cattaneo che sono note a tutti per aprire un istante il discorso, cioè nel suo saggio La città considerata come principio ideale delle storie italiane, pubblicato nel 1858, Carlo Cattaneo, tra l'altro, e non voglio appunto annoiare con lunghe citazioni assolutamente, ma comincia proprio così: fin dai primordi la città è altra cosa in Italia da ciò che ella è nell'Oriente o nel Settentrione. L'Impero Romano comincia entro una città. È il governo di una città dilatato a comprendere tutte le nazioni che circondano il Mediterraneo. La fede popolare derivò la città di Roma dalla città d'Alba. E così continua. E dice ancora di più: ai nostri, ancora per tutto il settentrione, la famiglia possidente ama stanziare solitaria in mezzo alla sua terra. Qui la sua casa paterna, eccetera. In Italia, invece, il recinto murato fu in antico la sede comune delle famiglie che possedevano il più vicino territorio. La città formò col suo territorio un corpo inseparabile. E continua con questo tipo di contrapposizione tra, diciamo, lo sviluppo cittadino dell'Italia e lo sviluppo che avviene oltre, in un modo che certamente, appunto, è superato dalla fotografia degli ultimi 100 anni, ma che credo si presta ancora proprio per così provocare un seminario come quello che stiamo incominciando in questo momento. Grazie. Professoressa Fasson. Allora, come i coordinatori vi dicono. Come diceva ora il professor Prodi, l'Italia è una terra di città. Terra di città perché la nostra storia ha avuto come punto d'appoggio delle città, anche città che sono state città-stato, Roma, Venezia e poi tutti i comuni italiani. Le città hanno un posto privilegiato nelle ricerche storiche del Medioevo in poi. E i primi a riflettere sul fenomeno città sono stati i cronisti e quegli autori che in prosa o in versi ci hanno tramandato descrizioni di città. Dal poemetto ben noto in onore di Milano dell'VIII secolo a Beauvaisin della Riva, con la sua famosa descrizione di Milano, ma ci sono anche molte descrizioni di altre città. Accanto ai cronisti, voi sapete che la cronachistica italiana è molto ricca, accanto ai cronisti, ai poeti, ai poligrafi, Beauvaisin della Riva è un tipico poligrafo, di città si sono occupati i teologi e i pensatori politici. Da San Tommaso in poi e anche qualche predecessore di San Tommaso. I nostri archivi sono pieni di carte in cui si riflette la vita delle città in tutti i suoi aspetti e le biblioteche sono piene di opere che studiano queste città, questi aspetti della loro vita colti di momento in prospettive diverse. Direi dal Cinquecento in poi. Ora non è il caso di tracciare un profilo di storia della storiografia urbana, non è mai stato scritto e mentre preparavo questa breve relazione mi è venuta un'idea. Dico, in fondo io dico sempre che sono stanca di città, stanca di parlare di città, ne parlo ormai credo da 50 anni, ma perché non posso fare io questa storia della storiografia urbana? E mi è venuta questa idea e può darsi che la faccia nei prossimi anni. Però, a parte questo, io vorrei dire che in questi ultimi 70-75 anni noi siamo passati dalla storia puramente o prevalentemente politica alla storia istituzionale, la storia delle istituzioni delle città, punto momento privilegiato e preferito, la formazione del comune, l'organizzazione del comune. Poi siamo passati alla storia economica, siamo passati alla storia sociale, incrociando l'una con l'altra. La storia religiosa si è capito che è strettamente immedesimata con la storia della città in quanto vita di una collettività. Si è passati alla storia culturale, la scuola, le università sono fenomeni prevalentemente cittadini. E in epoca più recente si è passati alla storia urbanistica in quanto ci si è resi conto che la forma di una città riflette tutto il suo passato. Gli avvenimenti si traducono veramente nei monumenti ed è attraverso i monumenti che la storia diventa, diciamo pure, visibile. Ora siamo arrivati a un altro momento nelle nostre ricerche. Sotto la pressione della situazione presente e rifacendoci anche a delle suggestioni che ci venivano da certi studiosi, e il principale è proprio quel Carlo Cattaneo, di cui Prodi ha ricordato così opportunamente il nome, siamo ritornati a studiare il nesso che unisce la città al territorio. Una città, ogni città è legata al suo territorio da una complessa rete di rapporti reciproci e interagenti. È inconcepibile ormai la città staccata dal territorio. Anche un fatto evidente, subito, immediato, le città dell'Alto Medioevo sono delle città relativamente ristrette che pian piano si allargano, si estendono fuori delle mura, costruiscono nuove cerchie di mura e conquistano poi un territorio e una volta conquistato lo devono organizzare. Si ricostituisce quella simbiosi, diciamo, fra territorio e centro abitato che era caratteristico della storia romana. Ora, noi, come settore italiano, abbiamo voluto offrirvi un rapidissimo campionario di questi nuovi interessi storiografici. La signorina, la professoressa Maria Consiglia De Matteis ci parlerà della ideologia della città, interpretando appunto i teologi e credo uno dei suoi autori preferiti, no? Che era il suo famoso Remigio De Gerolami. La professoressa Orselli, che è studiosa di storia della Chiesa, ci parlerà della Chiesa come organizzazione del territorio, organizzazione ecclesiastica della diocesi. La professoressa Bocchi ci riporterà all'ambito della storia economica e sociale, parlandoci dell'organizzazione del territorio. E il dottor Greci ci parlerà dell'organizzazione del lavoro, che è un fenomeno tipicamente cittadino, ma non soltanto cittadino, perché fuori delle città, nella campagna, c'è un artigianato che lavora anche per la città e che non è organizzato, è già un anticipo di lavoro nero, come diciamo noi in Italia, di lavoro che si sviluppa fuori degli schemi dell'organizzazione corporativa. La dottoressa Frova ci parlerà della scuola, ma non tanto delle università, che sono un fenomeno abbastanza raro, quanto in Italia, cominciamo con Bologna, poi abbiamo Padova, poi abbiamo Napoli, poi nel 300 verranno Pavia e Ferrara. Venezia non ha mai avuto un'università perché si serviva di quella di Padova. Quanto invece ci parlerà della scuola, quelle scuole in cui si insegnava a leggere, a scrivere, a far di conto e che erano la base della cultura, degli operatori economici, di coloro che vivevano e amministravano le città, che vivevano la vita politica cittadina ed erano anche la base culturale di chi sarebbe poi andato a quelle poche università che ho ricordato. Questo è il profilo che noi abbiamo voluto dare al contributo italiano a questa settimana di studi. Noi speriamo che il confronto con la problematica che ci offrono i colleghi tedeschi stimoli dei dibattiti utili e stimolanti per tutti noi, per le due parti. E con questo ho finito. Grazie. Ich muss zunächst etwas sagen. Herr Haferkamp fühlt sich etwas unglücklich neben uns, weil wir ihn heute zum Statisten verurteilt haben. Denn gestern Abend ist er erst angekommen, als es zu spät war, mit ihm etwas zu verabreden. In Wirklichkeit ist er aber bei der Vorbereitung schon sehr aktiv beteiligt gewesen und wird es auch bei der Durchführung des Seminars sein. Und dann wird er mir nicht mehr sagen, dass er da hinten besser säße als hier, sondern wird sicher hier gerne auch sitzen, wo er hingehört. Das Erste, was ich tun muss, ist der Versuch, ganz kurz zusammenzufassen, was Frau Fasoli auf Italienisch gesagt hat, da einige von unseren deutschen Teilnehmern sicher diese Verständnishilfe brauchen können. Das ist nun bei einem so kurzen und konzentrierten Text nicht leicht. Und es geht alle Farbe aus dem Gemälde, das sie gegeben hat, weg. Ich kann nur sozusagen eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem bunten Bild bieten. Und die noch ist dazu mehr schwarz als weiß. Italien ist ein Land der Städte, in dem Stadtstaaten, von denen Frau Fasoli Rom und Venedig eigens genannt hat, und dann die vielen Kommunen, eine ganz besonders große Rolle spielen. Und infolgedessen ist die Stadt im Bewusstsein der italienischen Bevölkerung und erst recht natürlich der italienischen Historiker von vornherein sehr stark gewesen. Als ältestes Zeugnis zitiert sie das berühmte Gedicht Lob von Mailand aus dem 8. Jahrhundert und hat sich dann nur auf Mailand beschränkt, mit Bonvesin de Riva aufgehört. Das ist ein Gedicht über Mailand aus dem 13. Jahrhundert. Aufgehört also mit dem 13. Jahrhundert, wo die meisten unserer, der deutschen Vorträge erst anfangen werden. Das ist ein Teil dessen, was unser Seminar beschäftigen wird, dass nämlich die Quellenlage und die Geschichte in beiden Ländern verschieden gegangen ist. Und wenn Frau Fasoli sagt, die Archive seien voll und die Bibliotheken seien voll von Abhandlungen über die Städte, die schon im 16. Jahrhundert beginnen, dann sind wir etwas ärmer dran. So voll wie die hiesigen sind unsere Archive nicht. Und so früh wie hier hat man bei uns nicht begonnen, sich mit der Geschichte der Städte zu beschäftigen. Trotzdem gibt es weder in Italien, wie Frau Fasoli hervorhebt, noch in Deutschland eine Geschichte der Stadtgeschichtsschreibung. Und es wäre sehr schön, wenn Fräulein Fasoli diese Gelegenheit benutzen würde, das wenigstens für Italien vorzulegen. Denn da sie eine Mittelalterhistorikerin ist, wird sie wahrscheinlich mit ihrer Geschichte der Stadtgeschichtsschreibung im 8. Jahrhundert beginnen. Und das macht die Sache dann hübsch, wenn sie vom 8. bis zum 20. Jahrhundert reichen sollte. Für das 20. Jahrhundert hat Frau Fasoli ganz kurz gesagt, dass die bis dahin vorwiegend betriebene politische Geschichte seither sehr stark begleitet wird von der Geschichte der Verfassung, der städtischen Verfassung, dass dann die Wirtschaftsgeschichte, die Sozialgeschichte und schließlich alles in eins hinzukommen, in stärkerem Maße als vorher, und dass schließlich auch die Kirchengeschichte und die Geistesgeschichte der italienischen Städte behandelt wird und seit erst wenigen Jahren auch die Urbanistik, das heißt die Architekturgeschichte, die die städtischen Denkmäler zu Geschichtsquellen macht und die Geschichte eigentlich erst sichtbar macht. Wobei mir eingefallen ist, dass wir versuchen müssten, ob wir das etwas unübersichtliche Trient auch sichtbar machen können. Monsignor Roger, vielleicht können Sie uns helfen. Schließlich ist ein wichtiges Thema, das noch nicht sehr lange behandelt wird hier in Italien, das Thema Stadt und Territorium, das heißt das ganze Verhältnis von dem bewohnten Mittelpunkt zu dem umliegenden Land bis hin zur Schwarzarbeit der Landhandwerker. Si dice anche lavoro nero da noi, Schwarzarbeit. Sempre nero. Frau Fasoli hat dann dargelegt, dass die fünf Vorträge, die italienischerseits in diesem Seminar gehalten werden, versuchen, diese verschiedenen Bereiche der Stadt darzustellen und hat, ich glaube aber, das brauche ich jetzt nicht zu tun, denn so viel Italienisch können die deutschsprachigen Teilnehmer, dass sie die Themen der italienischen Vorträge übersetzen können und sich aufgrund dessen, was ich jetzt gesagt habe, auch vorstellen können, was Frau Fasoli davon gesagt hat. Hier beginnt nun das, was der Deutsche sagen muss. Sie haben bereits gemerkt, dass Frau Fasoli Italienisch und ich Deutsch spreche. Soweit Sie Deutsch sind, haben Sie möglicherweise nicht gehört, dass Herr Prodi das ausdrücklich bereits vorgeschlagen hat, dass jeder Seminarteilnehmer seine Sprache spricht. Es wird gehofft, dass er die Sprache der anderen zum Teil versteht. Wer nichts versteht oder nur teilweise verstanden hat, muss uns bitten um Inhaltsangabe in der anderen Sprache. E questo ripeto in italiano, perché si rivolge anche agli italiani. Chi non è in grado di capire quello che è stato detto in tedesco, si rivolga a noi per avere un riassunto in italiano di quello che non ha compreso. Perché una discussione non è possibile se si discute senza comprendere. Scusa. Soweit. Das Zweite, was glaube ich, noch nicht ganz so verstanden worden ist, wie es hätte verstanden werden sollen, was Herr Prodi gesagt hat. Die Seminarteilnehmer müssten so eng an diese Tische hier, dass sie gut zu unterscheiden sind von den nicht am Seminar teilnehmenden Zuhörern. E lo ripeto anche questo in tedesco. I partecipanti al seminario, relatori e borsisti, devono concentrarsi possibilmente in questo vano perché possano essere distinti bene dagli altri che sono soltanto ascoltatori delle nostre sessioni. E questo sarà necessario nel momento che segue le mie parole, perché poi verrà la presentazione di tutti, esclusi gli ascoltatori che non si presenteranno, perché resteranno nell'anonimato. Es ist noch eine dritte Sache, die Herr Prodi ausdrücklich gesagt hat und die ich auf Deutsch wiederholen möchte. Wir sind kein Kongress. Auf einem Kongress werden fertige Ergebnisse vorgetragen und dann auch diskutiert, wobei sehr oft die Diskussionen bei Kongressen erstens wegen Zeitmangels und zweitens wegen Mangels an Kompetenz etwas enttäuschend sind. Der Mangel an Kompetenz entsteht daraus, dass man für einen Vortrag den besten Fachmann, den man kriegen kann, bestellt und ergo im Auditorium eigentlich keiner ist, der es auch nur annähernd ebenso gut weiß. Sollte aber der Vortragende es nicht gut gewusst haben, dann ist das Auditorium so höflich, ihn nicht vor den übrigen Zuhörern bloßzustellen. Und das heißt, eine wirkliche, lebendige und weiterführende Diskussion kommt bei offiziellen Kongressen kaum jemals zustande. Wir sind hier nicht hergekommen, um fertige Ergebnisse auszutauschen, sondern wir sind hierher gekommen, um uns gegenseitig Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten oder auch gegenseitig mitzuteilen, dass an dieser Stelle noch nicht endgültige Fragen und endgültige Antworten gegeben werden können. Oder auch, wie gleich Fräulein Fasoli wunderbar angefangen hat, dass sie sagt, gestern Abend habe ich gemerkt, es hat eigentlich noch keiner die Stadtgeschichtsschreibung als solche behandelt. Das wäre doch was zu tun. Die erste Anregung in diesem Seminar hat Fräulein Fasoli sich selber gegeben bei der Vorbereitung auf das, was sie heute früh vortragen sollte. Dieses offene Stellen finden, sich überlegen, was man gerne wissen möchte, was man noch nicht wissen kann, das ist der Hauptgegenstand unseres Seminars und der Diskussionen. Und darum ist jeder, der schweigt in diesem Seminar sozusagen kein Hindernis, aber auch kein Nutzen, wohingegen jeder, der spricht, auch wenn er irrt oder einen Fehler sagt oder fragt, von Nutzen ist, denn ein Gespräch, eine Diskussion, die ein Ergebnis haben soll, kommt nur voran, wenn alle offen sind und keiner sich geniert oder schüchtern zurückhält, was er eigentlich gerne hätte sagen oder fragen wollen. Verzeihen Sie, das ist eine Schwierigkeit, die kennen Sie aus allen Universitäts- und vielleicht sogar auch Schullehrveranstaltungen, dass es sehr, sehr schwer ist, das Eis gegenseitiger Ängstlichkeit zu brechen und den Mut für alle zu verbreiten, wirklich zu einem Gespräch, bei dem andere Leute zuhören. Das heißt, so mutig zu sein vor 25 oder 30, wie man mutig ist vor ein oder zwei Gesprächspartnern. Das ist das, was wir hier brauchen. Aber das ist schon zu viel predigtähnlich. Jetzt nur ein kurzes Wort noch zu den Überlegungen von Herrn Haferkamp und mir. Als wir wussten von dem Programm der fünf italienischen Themen, war uns klar, dank der Quellenlage können wir zwei Dinge nicht. Wir können weder so umfassend, so systematisch für die deutschen Städte sprechen, wie es unsere italienischen Kollegen für die italienischen Städte können. Ich sage gleich noch warum. Und wir haben zweitens, wenn überhaupt, für diese Thematik erst so späte Quellen, dass gar kein Vergleich möglich ist. Das eine, ich glaube, ich darf Fräulein Fasoli etwas kritisieren oder fragen. Sie haben gesagt, Italien ist das Land der Städte. Ich möchte furchtbar gerne wissen, warum der König Agilulf auf seiner Krone sich Rex Totius Italiae nennt und wüsste gerne, was zur Zeit dieses Langobardenkönigs Tota Italia gewesen ist. Vielleicht war es dasselbe, wovon Sie gesprochen haben. Das heißt, wo es die Städte gibt, die Italien zu einer Städtelandschaft machen. Denn ich glaube, die Städte, von denen Sie gesprochen haben, finden sich nicht so sehr in Mittel- und Süditalien und auch nicht so sehr in Nordwestitalien, sondern eben in der Lombardei, Emilia, Romagna, Toskana, Umbrien, Marken vielleicht, non lo so, ich weiß. Für uns ist die Schwierigkeit, dass wir eine entsprechend konzentrierte Städtelandschaft nicht in dem Maß haben. Die deutschen Städte und die deutsche Städtegeschichtsschreibung weiß manchmal nicht recht, was eigentlich eine Stadt ist und was keine Stadt ist. Und auch das ist ein Problem, das hier in Italien längst nicht so sehr sich stellt. Diese deutschen Städte sind viel weniger ähnlich. Und so haben wir herausgesucht, drei Städte, bei denen erstens ganz klar ist, dass es sich um Städte handelt. Denn es sind sogenannte Römerstädte, die also schon in der Römerzeit Siedlungen waren, Castra, Augsburg, Trier und Köln. Und es sind im Mittelalter Städte, deshalb, weil es Bischofsstädte sind, denn dass ein Bischof in einer Stadt residiert, ist kurz nach der Zeit des heiligen Bonifatius auch für Deutschland sicher gewesen, sodass wir also drei Städte haben, von denen die eine schwäbisch ist, die beiden anderen sind an sich fränkisch oder lothringisch, aber verschieden genug, um bestimmte Dinge daran zu zeigen. Und wir haben als viertes Thema das Thema der Tiroler Städte, wo wahrscheinlich die Frage, was eine Stadtgemeinde und was eine Landgemeinde ist, sich auch stellen wird, wenn nicht rein formal Stadt nur durch Stadtrechtsverleihung entsteht. Bei diesen Städten muss nun bei uns jeder der Referenten versuchen, so viele Seiten wie möglich hervorzuheben, teils in seiner Relation, in seinem Vortrag, teils aber auf Befragen in der Diskussion. Und so hoffe ich, dass wir, wenn auch mit einer gewissen Verspätung, unsere Hauptquellen fangen im 13. Jahrhundert an, für Köln auch schon im 12., aber bei uns ist einfach die Zeit später, dass wir von unserer Seite her etwas dazu beitragen können. Ich glaube, dass an sich das ganze Unternehmen nützlich ist, weil die Städtegeschichtsforschung merkwürdigerweise noch stärker lokal begrenzt zu sein scheint, ich fürchte in beiden Ländern, als die sonstige Geschichtsforschung, wenn schon italienische und deutsche Historiker oft nur zu wenig voneinander Kenntnis nehmen, so nehmen bei uns schon die Städtehistoriker von der einen Stadt keine Kenntnis von den Städtehistorikern der anderen Stadt. Und es ist ein großer Fortschritt, wenn bei uns landschaftlich sich die Städtehistoriker zusammentun, um ihre Ergebnisse innerhalb der Landschaft, der deutschen Landschaft, auszutauschen. Heute oder in den nächsten Tagen haben wir hier deutsche Städtehistoriker und italienische Städtehistoriker. Und ich denke, dass dabei eine ganze Menge herauskommt, von dem, was die einen und die anderen noch nicht gewusst haben. Absichtlich haben wir niemanden bestellt, der einen Vortrag hält, komparatistisch, also vergleichend, über die italienische und die deutsche Stadtgeschichte. Ob am Ende dieses Seminars jemand in der Lage ist, in dieser Richtung sich Gedanken zu machen, das werden wir bemerken. Ich weiß nicht, ob ich habe non ho detto quasi niente se non cose organizzative. Chi non l'avrà capito può sentirlo anche ancora in italiano, però credo che per me, per le mie poche parole, non sarà necessario un riassunto in italiano. Qualche cosa anche in italiano possiamo aggiungere. Ringrazio intanto il professor Elze che ha tradotto, riassunto e direi tradotto con tanta puntualità le poche cose che gli ho detto. Ringrazio il professor Elze anche per il suo bellissimo tedesco che è così chiaro e così facile da seguire. Io spero che anche gli altri relatori, lo dico anche agli italiani, parleranno adagio, in modo da dare tempo agli altri di capire. È più facile capire un italiano che parla che non un tedesco, perché con quel verbo alla fine si rimane col fiato sospeso finché non si arriva al verbo o quel zu, a quel ab finale che è sempre molto faticoso. Il professor Elze, in sostanza, parlando della tematica scelta per le città tedesche, ha osservato che la documentazione tedesca è molto più tarda di quella italiana e che quindi lo studio viene spostato in un'epoca più tarda di quella a cui si possono riferire le città italiane. Il professor Elze ha anche detto che i vari relatori considereranno le singole città sotto i vari punti di vista in modo di avere un qualche rapporto con la tematica scelta dagli italiani. Le sue piccole insinuazioni su Agilulfo, ex Italie, e su Agilulfo, sulle città italiane del nord, centro, est, ovest e sud, ne riparleremo in un altro momento, perché ora deve parlare il professor Afarkamp. No, lui non parla, perché... Lui non parla. È proprio così che abbiamo, va bene. Non ci potevamo mettere d'accordo ieri sera, perché lui era arrivato troppo tardi. Ich bin also einverstanden. Ich möchte nur das eine noch wieder aufnehmen, was Frau Fasoli gesagt hat. Bitte, wer spricht, soll langsam und deutlich sprechen, denn dann ist das Verstehen viel, viel leichter. Und die Schwierigkeit, den Deutschen, die das Italienische nicht kennen, die Schwierigkeit für die Italiener ist, dass bei uns das Verbum am Ende des Satzes steht. Und wenn der Satz lang ist, dann wartet ein italienischer Zuhörer endlos auf das Verbum, das nicht kommt. Und wenn man das einmal als Deutscher gehört hat, dann fragt man sich nur noch verwundert, warum warten wir Deutschen eigentlich nicht auf das Verbum, sondern warum macht es uns nichts, dass das Verbum unter Umständen nach einem ganz langen Satz, der sich hinzieht, erst ganz am Schluss kommt. Bitte denken Sie daran, wenn Sie können, sagen Sie kurze Sätze, in kurzen Sätzen kommt das Verbum schnell. Aber jetzt, adesso dovremmo presentare. I relatori. Cominciamo con l'ordine che ci è stato dato qui. No, Alba Maria Orselli non c'è, ma non importa. Allora noi vogliamo invitare i relatori a presentarsi stessi con la loro attività, per la loro attività e soprattutto per il loro campo di ricerca. E perseguiamo un ordine che corrisponde a quello che è fissato per le relazioni. Allora io pregherei la dottoressa Maria Consiglia De Matteis, professoressa anzi, perché è incaricata all'Università di Bologna da parecchi anni di storia medievale, di dire quali sono i suoi campi di ricerca e i suoi interessi specifici. Confesso che mi riesce un po' imbarazzante questo, dover presentare me stessa, ma forse è uno dei miei tanti limiti, quindi chiedo scusa. Comunque mi occupo di storia medievale, i miei interessi riguardano soprattutto il basso medioevo e direi con un'attenzione particolare per i temi culturali della storia fiorentina. Infatti mi sono occupata dei cronisti fiorentini, così come mi sono occupata anche, anche se per un settore molto particolare, mi sono occupata anche della monarchia di Dante Alighieri. E poi, come ha accennato prima la signorina Fasoli, il mio interesse, forse iniziale, è stato anche il primo, è legato ad un teologo, un domenicano fiorentino, Remigio dei Girolami, che è un personaggio molto particolare, ma può essere anche molto interessante nella misura in cui sia possibile rintracciare possibili collegamenti con lo stesso Dante Alighieri. Infatti per lungo tempo si è supposto che questo Remigio di Girolami possa essere stato maestro di Dante Alighieri. Il nome di Remigio di Girolami ritornerà anche nella relazione che vi leggerò oggi pomeriggio, anche se non sarà il momento essenziale di questa mia relazione. Non credo di dover dire nient'altro per quello che mi riguarda, anche perché torno a ripetere, è molto imbarazzante, ma non lo so, se avete qualcosa da chiedermi sono felicissima di rispondere, forse sarebbe più semplice. Forse le domande verranno dopo la relazione. Sì, probabile. Anche sì, proprio sul campo di interessi. Allora preghiamo adesso il professor Franz Heinz. Come si dice? Chi? Chi è? Ecco, ma è un nome tedesco? Chi è? È tedesco? Sì, sì. Come no? Sì, sì, sì. Si accomodi. Prego, si accomodi e ci dice. Accende al tavolo così si dice. Sì. Ma questo come? Austriaco. Tedesco. Austriaco. Chi è? Die Herzog herzlich gratulieren für die Einladung. Hier bei Ihrer Tagung teilnehmen und mitwirken. Ich bitte mich vorzustellen, darf ich vielleicht ganz kurz erweitern meinen Studiengang. Geschichte, Geografie in Innsbruck bei Professor Hutter. Anschließend 3 Jahre Institut für Geschichtsforschung in Wien. Berufliche Praxis 6 Jahre im Landesregierungsarchiv in Innsbruck. Und dann ab dem Jahr 1969 Übernahme der Direktion des Stadtarchivs in Innsbruck. Die Ausbildung hat es mit sich gebracht, dass also gewisse Schwerpunkte sich bei mir herausentwickelt haben. Der eine Schwerpunkt ist im Bereich der Hilfswissenschaften. Wie könnte es anders sein, wenn man das Institut für Geschichtsforschung frequentiert hat? Und der andere Bereich ist dann vornehmlich die Stadtgeschichtsforschung und hier eigentlich die, wenngleich nur regionale, so doch in diesem Bereich vergleichende Stadtgeschichtsforschung für die Städte Tirols. Und wenn ich heute hier oder morgen hier meinen Vortrag halten darf, so mache ich das im Bewusstsein, dass dieses Tirol als eine, wenngleich aus einer Vogteigewalt usurpierten Grafschaft dadurch entstandene Grafschaft. Dass es also keine klassische Grafschaft gewesen ist, wohl aber ein Territorium des alten Heiligen Römischen Reiches im Sinn der heutigen Ausdrucksweise. Darf ich mit Freuden feststellen, dass ich, wenngleich in bescheidener Form, Österreich hier ganz klein wenig repräsentiere. Das sei kein Vorwurf gegen unsere lieben Vorbilder unserer Muttersprache, aber eine Differenzierung hinsichtlich der Terminologie in Germania. Ja, was meine Arbeiten betrifft, also darf ich sagen, dass ich eine Reihe einerseits heraldischer Arbeiten herausgebracht habe und andererseits seit Jahren im Auftrag der Akademie der Wissenschaften am österreichischen Städtebuch arbeite, wo ich den Band oder die Bände Tirol, und zwar sowohl das Bundesland Tirol wie auch die heutige Provinz Bozen, also die Städte dieser Teile, bearbeitet. Eine gewisse Studie oder Vorarbeiten zu diesen beiden Bänden sind bereits erschienen. Einmal in dem Sammelband die Städte Mitteleuropas am Ausgang des Mittelalters, herausgegeben von den Tagungen von Wilhelm Rausch, und das war damals also die Tiroler Städte am Ausgang des Mittelalters, dann einige Detailstudien über Innsbruck, über das Verhältnis der Landeshauptstadt in Tirol, das ja nicht so einfach ist, wie man bisher geglaubt hat, und jetzt in der Festschrift für Professor Eichenmeier im Wesentlichen etwas ausführlicher natürlich jene Ergebnisse, die ich morgen im Referat vortragen werde. Dankeschön. La professoressa Alba Maria Orselli, incaricata di storia della Chiesa all'Università di Bologna, non è presente perché non sta bene, ha la febbre, è andata a riposare per poter essere pronta per la relazione. Ad ogni modo, la professoressa Alba Maria Orselli è la specialista che noi abbiamo in Italia per le ricerche sul santo patrono, Patrozinium Forschungen, ed ha una competenza notevole proprio su tutti i problemi ecclesiastici, soprattutto dell'Alto Medioevo. E con questo io non posso dire niente di più, perché non so che cosa avrebbe potuto dire, si potrà poi riparlarne quando sarà presente lei. Professor Haverkamp? Es muss ich doch was sagen. Dobbiamo stare alle regole. Meine Damen und Herren, ich kann das aber sehr kurz machen. Ich habe vielleicht insgesamt so 2 oder 3 Schwerpunkte bisher versucht, und zwar einen räumlichen, der sehr stark auf Italien bezogen ist, Italien, Reichsitalien, mit dem ich mich befasst habe in meiner Dissertation und leider auch in der Habilitation. Diese Arbeiten habe ich dann aber abgebrochen, habe wieder ein Arbeitsgebiet aufgenommen, das ich schon nebenbei betrieben hatte, nämlich zur Sozialgeschichte des hohen und späten Mittelalters mit einem Schwerpunkt auf Deutschland. Ich habe dabei Themen bearbeitet wie Verhältnis von Leibeigenschaft und Freiheit, etwa im bayerischen Gebiet, oder auch eben Themen zur Geschichte der Juden, zur Geschichte der Sklaverei in Genua, um diesen einen Abstecher nach Italien noch zu nennen. Und habe in der letzten Zeit dann mich verstärkt eben auch der Stadtgeschichte zugewandt. Aus diesem Gebiet werde ich dann morgen auch vortragen, und zwar mit einem Schwerpunkt auf Trier, was also sich einfach eben auch aus dem besonders guten, muss man da sagen, Quellenmaterial ergeben hat. Ein Quellenmaterial, das in gewisser Hinsicht für das 14. Jahrhundert ungefähr einen Stand bieten dürfte, der in Italien, in den größeren Städten im 12. Jahrhundert vorhanden ist, ungefähr von der Quantität her. Und das also, da könnte man diese Unterschiede in der Quantität, also quantitativ, glaube ich, einigermaßen bestimmen. Ja, danke Ihnen. Allora, passiamo. Un istante, professore, a me tocca ogni tanto intervenire con annunci brutali, sì. Ma scegliono quanti siamo a pranzo. Chi si ferma a pranzo con noi? Ecco, se loro alzano la mano molto semplicemente. Dunque, allora, qui siamo 19, ci fermiamo tutti. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Una trentina, eh? 30 si può dire un numero abbastanza. Chiedo scusa. Prego. Ecco, chi non ha il buono lo prende su in segreteria. Allora adesso tocca alla professoressa Francesca Bocchi, incaricata di storia medievale all'Università di Bologna, mi pare da 7-8 anni anche lei. Francesca? Io studio da molti anni, naturalmente, i problemi connessi con la storia delle città. Problemi che sono relativi in generale e alla storia delle istituzioni e alla storia economica e sociale delle città e del territorio circostante. Dal momento che, così come sarà centrata la relazione che terrò fra qualche giorno, sulla interdipendenza fra città e territorio, cioè due storie, quella la storia urbana e la storia territoriale, che si incrociano nella gestione della cosa pubblica. Questo naturalmente ha molte facce, perché come ricordava il professor Elze prima, noi la storia italiana non è una sola storia di città, è una storia che ha diversi svolti su diversi piani. Le città del nord, del centro, non sono le città del sud, non sono le città delle isole. Roma non è Venezia, Bologna non è Milano, tutte storie diverse. Ed è molto difficile riuscire a dare un'immagine generale di questi dei problemi. E quindi la relazione che io terrò, pur non essendo centrata su una città, è centrata però in verità sulle autonomie cittadine dell'Italia centro-settentrionale in generale. Quindi questi sono problemi. Per quello che questo argomento io ho studiato per questo seminario, che deriva da un tipo di interessi che io ho maturato attraverso altri studi che ho fatto. Studi che sono stati centrati su argomenti molto tecnici, potrebbero apparire a prima vista, relativi all'attività amministrativa delle città per quello che riguarda l'imposta diretta. E non solamente temporalmente centrata sull'età comunale, ma anche per un periodo successivo, fino all'invenzione dei catasti, e alcuni studi che io ho fatto sono proprio relativi al periodo in cui la tecnica dell'imposizione diretta si è perfezionata nella invenzione del catasto, e catasti naturalmente che poi hanno avuto quella grande evoluzione fino ad arrivare ai catasti geometrici e particellari. Quindi i miei studi sono avanzati fino al Settecento da questo punto di vista. Proprio perché si tratta di un'evoluzione tecnica nell'imposizione che ha una sua ragione di essere e che la si comprende partendo dal Medioevo. Ora però questi interessi miei non sono derivati dalla necessità di studiare le tecniche, studiare le tecniche di applicazione dell'imposta diretta. Questa mia necessità è, al contrario, dovuta necessità di studi, nell'interesse storiografico, deriva dal fatto che io ero interessata a capire come i governi cittadini, i governi urbani e anche gli stati territoriali, adesso dipende dai tempi e dai luoghi, hanno premuto su coloro sui quali era diretta l'imposizione. Cioè non tanto per capire come veniva gestita la finanza pubblica, quanto che è già un argomento di studio che è stato affrontato fra 8 e 900 da valorosissimi studiosi, non solo italiani, e quindi quello che mi interessava piuttosto era l'interesse, diciamo così, sociale della cosa, cioè quali erano gli strati su cui l'imposta diretta andava a premere per il prelievo fiscale. Quindi questo è un argomento che ha occupato alcuni anni della mia storia personale di studioso e che mi interessa tuttora, perché evidentemente ogni luogo si manifesta proprio a seconda del tipo di struttura politica ed economica che si realizza all'interno della città, questo poi si rispecchia nelle tecniche di applicazione dell'imposta sul contado. Quindi è un'immagine speculare, diciamo così, di quanto avviene socialmente, economicamente, politicamente all'interno della città. Ecco, poi naturalmente ho studiato anche altre cose, ma che mi sembra però che, dato il tema che stiamo affrontando, sia questo l'argomento di maggiore forse così, attualità, e che spero che sia di qualche interesse per chi mi ascolta. Grazie. Il dottor Rolf Kissling? Ja, ich habe also in München studiert und aus meiner Münchner Studienzeit heraus ist dann die erste Arbeit zur Stadtgeschichte erwachsen, die sich mit dem Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und Kirche im Spätmittelalter beschäftigt, also insbesondere schwerpunktmäßig auf das 14. und 15. Jahrhundert bezogen. Habe dann meine Arbeiten weitgehend eingestellt, um in der Schule tätig zu sein, und sie wieder aufgegriffen vor einigen Jahren mit Hilfe eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft und beschäftige mich zurzeit etwas ausführlicher mit Themen der Stadt-Land-Beziehungen, insbesondere bezogen auf die ostschwäbischen Städte, also den Teil Schwabens, der normalerweise von beiden Seiten eher etwas vernachlässigt wird. Die Württemberger gehören in der Regel bei der Iller auf und die Bayern beim Lech. Dazwischen ist sozusagen Niemandsland, und von da ausgehend beschäftige ich mich insbesondere mit drei Aspekten. Das eine, den Versuch, mit Hilfe des bürgerlichen Besitzes auf dem Lande ein Beziehungsgeflecht zum Land herzustellen. Das zweite, wirtschaftliche Verflechtungen aufzudecken, und das dritte, herrschaftliche Beziehungen zu analysieren, insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Territorienbildung. Wobei ich mir verspreche, dass also die verschiedenen Aspekte im Zusammenklang miteinander vielleicht eine gewisse Möglichkeit der Erhellung bieten. Ich habe vor, in meinem Referat ein paar Aspekte herauszugreifen, die sicher nicht vollständig sein werden, sondern sich auf die sozialen und territoriumsgeschichtlichen Probleme beziehen. Von Augsburg ausgehend, da und dort vielleicht ein kleiner Hinweis noch auf andere schwäbische Städte in diesem ostschwäbischen Bereich. Dankeschön. La ringrazio. Ora il professor dottor Roberto Greci, professore di liceo e ricercatore presso il nostro istituto da molti anni, parlerà delle sue ricerche e dei suoi particolari interessi. Sarò senz'altro molto più breve di coloro che mi hanno preceduto, Io svolgo la mia attività, come ha già detto la signorina, nell'Istituto di Discipline Storiche e Giuridiche dell'Università di Bologna dal 72. Il mio interesse fino a questo momento si è concentrato sulla storia economica e sociale, in particolare della città di Bologna e un pochino più in generale dell'area emiliana, cioè regionale. Per inciso ricordo soltanto un mio lavoro che si collega più da vicino alla base di discussione che ho scelto per questo seminario. Esso è relativo al contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi per i secoli XIII e XV. Fondamentalmente mi interessa quel periodo in cui nelle città italiane si sono manifestati degli interessanti fenomeni di decomposizione e di ricomposizione economico-sociale. Quel periodo, tanto per intenderci, che è stato perfino definito precapitalistico, una definizione che si potrà ampiamente discutere anche in questa sede, ma che rivela l'importanza attribuita dalla storiografia economica ad una fase di indubbia e complessa transizione. Una fase in cui sembrano concentrarsi i motivi fondamentali dello sviluppo, uno sviluppo particolare come vedremo, e della successiva involuzione della realtà economico-sociale italiana. È valido anche per me il tipo di cautela che già altri hanno espresso. La varietà delle situazioni urbane dell'area italiana rende assai difficile un esame sintetico dei meccanismi che pure mi interessano. Grazie. Grazie a lei. Il dottor Clemens von Lutz Korsbaren. Ich habe in Bonn studiert und vor allem bei Frau Professor N. Habe dann bei Professor Pohl in, auch in Bonn meine Doktorarbeit über Köln im 18. Jahrhundert geschrieben und bin jetzt als Assistent in Münster tätig. Mein Referat will die Verfassungsgeschichte von Köln im Spätmittelalter umgreifen. Und zwar interessiert mich die Zeit, nachdem Köln von der Herrschaft des Bischofs frei geworden ist. Also die Zeit, wo die Bürger selber ihre Stadt, ja, die Politik in die eigene Hand nehmen. Und da sind es verschiedene Bürgergruppen, einmal die Patrizier, die Oberschicht, wie man sie nennen will, die also versucht, die Stadtpolitik zu leiten. Und es sind auch die Zünfte, die Gemeinde, die Bürger, die versuchen, Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen. Und dieser Versuch von verschiedenen Parteien, die Stadtpolitik zu leiten, das will ich versuchen in meinem Referat darzustellen. Grazie. Ora la parola alla dottoressa Carla Frova dell'Università di Roma. Voi avete visto che Bologna ha fatto un po' la parte del leone. Per una ragione, perché avevamo gli specialisti per certe ricerche, non per un patriottismo sciovinista bolognese. Avremmo esagerato, avevamo delle persone che potevano anche predisporre le loro relazioni in armonia l'una con l'altra. C'era anche questa ragione. La dottoressa Frova ha invece un argomento tutto specifico che ha costituito un argomento di certe sue ricerche, ma ce ne parlerà più ampiamente lei e anche dei suoi nuovi interessi. Sì, infatti io mi sono occupata di alcuni problemi relativi alla storia della scuola e dell'insegnamento, in particolare diciamo con due poli di interesse. Da un lato l'insegnamento che potremmo dire di base nel periodo tardo-medievale, che sarà appunto l'oggetto di questa mia relazione, e in questo ambito mi sono interessata soprattutto alle tecniche di insegnamento, ai testi oggetto di studio e in generale al curriculum degli studi. E d'altra parte ho studiato l'insegnamento delle artes in alcuni centri alto medievali, da ultimo Vercelli e precedentemente Reims, e occupandomi dell'insegnamento di Gerberto di Aurillac a Reims ho studiato in particolare la cultura aritmetica, allargando anche il discorso a tutta l'area renana e lorenese intorno al 1000, e studiando quindi alcuni problemi anche di rapporto tra la cultura aritmetica e matematica in generale, la cultura letteraria, e che poi ho ripreso in parte anche in questa relazione che avrà per oggetto la scuola tardo medievale per quanto riguarda l'insegnamento dell'Avo. Grazie. Ora, prima di passare alla presentazione dei borsisti, desidero dire che noi abbiamo presenti come ospiti il professor Ovidio Capitani dell'Università di Bologna e il professore di storia medievale e il professor Carlo Ghisalberti dell'Università di Roma, erroneamente messo fra i borsisti, che è invece titolare, credo, di storia delle istituzioni. Spero di non essermi sbagliato a capire. Diritto è lo stesso. La storia del diritto. È lo stesso. Su per giù è lo stesso. E devo anche dire che del comitato scientifico degli istituti sono presenti, oltre che al professor Elze e al professor Prodi e al professor Igino Roger, che voi vedete qui al tavolo, il professor Pierangelo Schiera, che si è nascosto in fondo alla sala, e il professor Umberto Corsini, che gli sta facendo compagnia, se non mi sbaglio. Ecco, si sono nascosti. Ora possiamo passare alla presentazione dei borsisti, e una presentazione certamente più breve di quella che hanno fatto i relatori, che sono generalmente già più avanzati nel campo degli studi. Barone, dottoressa Giulia. Sono assistente all'Università di Roma. Non sono una specialista di storia della città, perché mi sono sempre preoccupata di ordini mendicanti. Essendo che non erano in città gli ordini mendicanti? In città, appunto, per quello si spiega perché io sono qui. Degli ordini mendicanti io ho studiato l'inizio e gli aspetti istituzionali, essenzialmente. Prima organizzazione, legislazione e legislazione scolastica. Adesso mi sono spostata anche su aspetti culturali. Mi sono occupata un po' di ideologia dei mendicanti rapporto alla città, e adesso sono affrontato il tema della riscrittura geografica in ambito mendicante. Benissimo, la ringraziamo. Belloni, dottoressa Annalisa. Sono della fabbrica di Milano. A Bergamo, prima di tutto. Che si non ha obbedito prima le indicazioni. Sono della Fabbrica di Milano e sono qui perché mi sono occupata un po' di storia milanese e studio uno storico milanese e sono interessata. Visto che Milano era una grande città. De Pascali, dottoressa Carlo. Io non sono una specialista in materia, ma neppure, cioè, il mio interesse è molto laterale. C'è una seggiola. Adesso li costringiamo a venire avanti. Ecco. Qui si forma un gruppo di lavoro, non c'è niente da fare. Il gioco è questo. No, il mio interesse è veramente molto collaterale, perché mi sono occupata di filosofia della politica, in particolare sul dialismo tedesco e poi sul romanticismo. Dal romanticismo politico naturalmente era inevitabile ricollegarsi ai problemi di Roma. Ferlito, dottor Sergio, Palermo. Dottor Ferlito non c'è? Non c'è. Ghisalberti, professor Carlo, erroneamente messo. Erroneamente inserito. Hold, dottor Herman. Ma torno indietro volentieri, possiamo cancellare. Farei volentieri anch'io, il giovane borsista. Ah, io no. Hold, hold, dottor Herman. No, si allarghi un po', se no. Ricominciamo tutto da capo, sì. Femmina, assistente Künstlinge am Institut für Kirchengeschichte, habe Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert, einerseits also an der Philosophischen Fakultät bzw. Theologie in Wien. Wir sind schwerpunktmäßig beschäftigt mit der Herausgabe der Acta Patrimoniae Austriaca, also von Aktenstücken aus dem Vatikanischen Archiv, aber auf die Passauer Diözese bezogen, auf das Herzogtum Österreich. Grazie. Il, la Ferla Grazia di Spezia? Io sono proborsista presso l'Istituto di Storia Medievale a Parma. Mi occupo di storia della città soprattutto dal punto di vista urbanistico e sto facendo un lavoro appunto sull'urbanistica di Parma nei secoli IX e X attraverso le fonti documentarie. Molto, saremo molto interessati a leggerlo. Dunque, no, io in particolare, Marsilli Pietro, Faenza. Sotto la guida del professor Carlo Poloni di Bologna, sto studiando in particolare l'attività sociale ed economica dei ceramisti faentini del 5-600, studiando soprattutto la chimioterapia di Faenza. Particolarmente da ricordare una immigrazione piuttosto consistente di maggioritari faentini in Boemia, quindi terra decisamente del mondo germanico, che andrò a studiare con una borsa di studio nel ministero cecoslovacco il prossimo anno. La ringraziamo. Presenti Marangon, dottoressa Tiziana di Padova. Sono io, sono a sinistra nell'Istituto di Paleografia e Diplomatica, mi occupo di storia dell'università e ho studiato la storia dell'università, in particolare della Facoltà delle Arti e Medicina, il rapporto con la storia della cultura cittadina. Adesso studio soprattutto questi rapporti tra cultura universitaria, cultura che sarà chiamata più tardi scienze accademiche e scienze extraaccademiche nel 400, però anche nel periodo zeliniano. E ci vedremo a Pistoia al convegno sulla storia dell'università. C'è a Pistoia questa... alla metà del mese un convegno sulla storia, proprio sull'università, università e società. Rick Bernd, München. Ich studiere an der Universität München, das heißt, ich bin jetzt gerade auch ein Doktorarbeit abgeschlossen über das Thema, ein Thema, das mit der alten Reichsverfassung zusammenhängt. Im 17. und 18. Jahrhundert allerdings. Und ich bin deswegen auch hier in diesem Kreis kein Spezialist, aber ich habe für diese Zeit, das 17. und 18. Jahrhundert, relativ viel mit Problemen auch der Staatsverfassung zu tun gehabt. Die Arbeit entsteht oder ist entstanden bei Herrn Professor Hans Schmidt in München. Sonst habe ich sehr viel gearbeitet, auch bei Herrn Professor Weiß und Herrn Meyer. Ringrazio. Schallbruch Martin di Bonn. Ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für dieses Nochmals herzlichen Dank und ich freue mich sehr, hier teilnehmen zu dürfen, ohne mit einem Doktorentitel aufhaften zu können oder ein spezielles Forschungsprogramm im Auge zu haben. Ich studiere in Bonn im 10. Semester Germanistik und Geschichte und ich interessiere mich allerdings persönlich besonders für den Vergleich der kulturellen und verfassungsmäßigen Geschichte der Städte Italiens und Deutschlands. Sofia dottoressa Sofia Francesco, Francesca Sofia. Sono dottoressa. Vengo da Università di Roma e sto preparando, sono laureando, sto preparando una tesi con il professor Bitalberti sul pensiero costituzionale di Sismondi. Quindi questo seminario mi interessa appunto per il problema istituzionale della città e appunto perché i Sismondi in particolare mi occupo del primo riflessioni, no? Prendendo spunto dal, dalle ricerche pubblicate, le prime ricerche sulle costituzioni dei popoli stranieri. E appunto, quindi, la città è il primo e lo secondo per Sismondi, per la sua prima riflessione sulla questione del suo pensiero costituzionale. Grazie. Vareschi, Don Severino. Prima il dottor Speroni. Giusto, sì, è vero, l'ho saltato. Dottor Speroni. Sono assistente ordinario a Milano, mi sono occupato di storia del romanesimo giuridico, ho pubblicato dei lavori su questo tema. Sono qui perché, come faccio solo anche la professione di avvocato e mi occupo di diritto urbanistico e ho pubblicato dei lavori di diritto positivo sul problema del recupero dei centri storici. Sono poi particolarmente interessato all'argomento perché, unendo, diciamo, questo interesse storico con la professione, sono consulente del comune di Castiglione Orona, che è una cittadina rinascimentale in provincia di Varese, che sta elaborando il piano di recupero del centro storico, il che pone anche dei problemi oltre che di diritto positivo storico. Ne ringraziamo. Questo è estremamente un apporto di storia contemporanea molto interessante proprio per i bolognesi che sui problemi del recupero del centro storico ci vivono dentro da qualche anno. Vareschi, Don Severino, allora questa volta adesso è giusto, non ho saltato righe. Sono io. Studio storia della Chiesa all'Università Gregoriana a Roma e il tema mi interessa perché nei miei studi non c'è molto di questo tipo e d'altra parte è interessante perché relazioni e contatti ce ne sono tra le città e la Chiesa e poi sto preparando per la licenza un lavoro sul Cardinal Madruzzo, il quale era anche protettore Germania presso la Curia Romana e lui aveva molto da... io incontro spesso i nomi di città tedesche, anche italiane, specialmente tedesche, allora ho pensato che mi veniva utile una conoscenza su questo settore. Grazie. Volmer, Volmer Ernst. Ich bin Trier Assistent von Professor Haberkamp und schon der frühen Studienzeit spezialisiert auf Stadtgeschichte. Meine Doktorarbeit über Speyer, Spira, steht kurz vor der Fertigstellung. Die beschäftigt sich mit dieser Stadt unter vielen möglichen Aspekten der Stadtgeschichte, die heute Morgen ja schon angeklungen sind und hat den zeitlichen Schwerpunkt 13. bis 14. Jahrhundert. Nur damit nicht der Eindruck entsteht, Herr Volkmar sei noch wissenschaftlich noch nicht völlig ausgewiesen. Er hat also schon auch publiziert aus dem Gebiet des Mittelrheins zur Ministerialität im Hohen Mittelrhein und zur Stadtgeschichte in diesem Raum. Signora Zug Tucci Hannelore. Sì, io sono un po' un corpo estraneo a questa lista di questa lista che stiamo presentando, anche per molte ragioni che cercherò di dire in poche parole. E siccome ho scelto la lingua italiana è già una scelta perché in pratica sono un essere anfibico. Questo adesso in tedesco. Ich bin etwas ein Fremdkörper in dieser Liste der Stipendiaten und ich werde das in Kürze auch gleich sagen, aus welchen Gründen. Und wie Sie schon gesehen haben, habe ich mit Italienisch angefangen, jetzt spreche ich Deutsch. Ich habe, was die Italiener etwas zum Lächeln gebracht hat, gesagt, ich bin ein amphibisches Wesen und das werde ich auch in Deutsch gleich sagen. Allora io sono proprio, credo, per questa mia anfibicità. Ambivalenza. Ambivalenza. È stata invitata qui perché sono sia tedesca che italiana. Cioè, i miei studi, il dottorato e la libera docenza li ho svolti in Germania, e attualmente sono professore stabilizzato in istituzioni medievali all'Università di Trieste e con un intervallo di 4 anni fra la Germania e Trieste a Genova. I miei interessi sono, cioè, poi devo dire un'altra cosa, forse alcuni mi conoscono ancora col mio vecchio nome, allora mi chiamavo Konoya e ho scritto su Karasana, eine oberitalienische Kontrastschaft im Mittelalter. Questo era il mio primo lavoro, il mio ultimo lavoro è un po' diverso, si chiama Un linguaggio feudale, l'araldica, nell'enciclopedia, cioè negli annali della storia d'Italia in Audi. Mi interesso, non espressamente delle città, ma io mi interesso, oltre che della storia delle istituzioni, ovviamente per cui ho la cattedra delle istituzioni medievali, della storia delle mentalità e con speciale riguardo sui segni, sui simboli, sui comportamenti dei gruppi sociali nel basso medioevo, perciò anche l'araldica, che io non capisco come una tecnica, ma come espressione figurativa, come espressione di segno della classe dominante, in inizio feudale militare, poi anche cittadina in Italia. E credo che sia tutto, comunque ringrazio dell'invito e cercherò di collaborare con la signorina Pasoli e con il professor Elze in italiano e in tedesco, li saremo, tutti e due saremo molto grati ormai, perché non parlo più uno né l'altro. E poi sarà molto utile negli scambi proprio fra le varie persone, anche fuori delle sedute, perché mi pare che siano emersi molti temi dalla presentazione sia dei relatori che dei borsisti, molti temi di interesse comune. O se posso questo, grazie, riassumere ancora per i tedeschi, mi sembrerebbe una scortesia per la mia provenienza tedesca di non dirlo anche in tedesco. Allora, ich bin Italienerin und Deutsche. Im Augenblick bin ich Italienerin. Ich bin Deutsche geboren, habe meine Laufbahn, Doktorat und Habilitation in Deutschland abgeschlossen, an der Universität Berlin, der Freien Universität Berlin. Und bin seit sehr vielen Jahren hier in Italien, 4 Jahre in Genua, seit sehr vielen Jahren schon in Trieste, wo ich den Lehrstuhl für mittelalterliche Verfassungsgeschichte innehabe. Ich habe meine Laufbahn begonnen mit einem Buch über Karasana, eine oberitalienische Grundherrschaft im Mittelalter. Und meine letzte Publikation, Sie sehen, ich habe mich etwas geändert in meinen Interessen, ist in der Geschichte in der Storia d'Italia in Audi, in der Geschichte Italiens in Audi, im Band Annali, ist ein Beitrag von mir, Un linguaggio feudale, l'analica, eine feudale Sprache, die Heraldik, ich weiß nicht, ob ich das gut übersetzt habe, ich habe es noch nie in Deutsch gesagt. Und damit könnte der Eindruck entstehen, ich habe Interesse. Interessierte mich für Heraldik im Sinne der Technik der Heraldik, das ist nicht so. Ich interessiere mich für Symbole, Zeichen und Ausdrucksweisen sozialer Klassen und begreife die Heraldik darin als ein System von Zeichen im der dominierenden Klassen, zunächst der militärisch verteilten Klasse, dann in Italien überhaupt der führenden Klassen in den Städten. Ja, ich glaube, damit habe ich auch alles in Deutsch gesagt. Und meine Einladung nehme ich an. Da danke ich, weil ich einigermaßen Deutsch und einigermaßen Italienisch vielleicht sprechen kann. Wahrscheinlich haben beide Seiten zu kritisieren, aber wenn man das beide spricht, dann Professor Elze wird mich bestätigen, dass dann fühlt man sich gar nicht mehr zu Hause, weder in einer noch auf der einen oder anderen Sprache. Ora la ringraziamo anche per la sua offerta di lavoro di interprete e ora la parola alla signora, signorina Ruth Laudor Jutta di Trier. Ich habe mich in meiner Examensarbeit mit der sozialgeschichtlichen Interpretationsmöglichkeit von spätmittelalterlichen Steuerlisten befasst und arbeite jetzt seit 2 Jahren am Forschungsprojekt von Herrn Professor Haberkamp in Trier, und zwar über die Sozialgeschichte von Trier. Außerdem arbeite ich an einer Doktorarbeit über die zur Geschichte der Juden im Erzstift Trier im Mittelalter. La ringraziamo e ora cedo al professor Prodi che ci dice come possiamo utilizzare questo facile. Non può uscire di scena, noi abbiamo ancora un'ora davanti, forse qualche cosa di utile possiamo fare, o vogliamo farlo con delle conversazioni fuori dalla sala? Io direi questo, cioè approfittare di quest'ora per parlare un po' la biblioteca. Ecco, che mi sembra che sarebbe molto utile. La biblioteca ha 20.000 volumi ed è specializzata in storia medievale moderna. E quindi nei prossimi giorni dovrebbe essere non così un oggetto passivo, ma diventare se necessario uno strumento per le discussioni, eccetera. Quindi io direi che ci troviamo alla mezza qui fuori, a mezzogiorno, ai 30 minuti, per andare insieme alla ringrazione. Molto bene, allora ringrazio tutti e andiamo a vedere la biblioteca.